Benissimo, siamo in studio con il nostro ospite internazionale Judith. Benvenuta, Judith. Grazie. La nostra ospite di oggi è, diciamo, gallese, Britannica? britannica, Sono bravo. gallese. Siamo molto contenti di averti perché non c'era mai capitato nessun inglese. Grazie. Non sono in Britannico. Sì, inglese. britannico. Ci puoi spiegare Gallese. queste differenze? Oh, questo è troppo difficile. Stai attento, Sono Fabrizio. nazionalità, sono britannica. Stai Non vengo attento. dall'Inghilterra, vengo da Galles. Galles. Pedigal. E quindi ci sono queste, diciamo, differenze segnate tra le varie contee? Sì, noi siamo Celtici. Celtici e gli inglesi sono anglosassoni. Ah, quindi E, non c'è immaginavo queste differenze tra. differenza. Ah, Sì. perché l'Italia è accusata di essere molto divisa tra regioni e città, ma vedo che anche l'Inghilterra non scherza. Sì. Siete anche voi così, ci tenete Sì. alle differenze? Così, la Scozia, Irlanda, cioè, tutte Ah, diverse. molto bene. E giusto una curiosità, i gallesi a chi assomigliano? In che senso? Diciamo, gli italiani assomigliano a qualsiasi popolo del mondo, vengono paragonati a qualunque popolo, escluso Ma alcuni. come irlandese e scozzese? Ah. E da Britannia in Francia? Brittany. E quindi fammi capire, quindi voi siete, vi sentite più vicini agli scozzesi e agli irlandesi che agli inglesi? Sì. Ah, guarda un po'. No, questo è uno spunto molto interessante, veramente interessante. E, dicono che in Galles piove sempre, il più brutto clima Sì, dell'Inghilterra. Sì, quindi. da dove viene mio padre, il villaggio da dove viene, peggio. Ah, il peggiore del Galles. Sì, Ah, quindi forse del assolutamente. Tutte mondo. le vacanze con i nonni c'è la pioggia. Ah, che tristezza. Sì, orribile. Quindi, allora, tu sei gallese, ma parli molto bene l'italiano. No. Puoi dirci perché hai imparato l'italiano? Come mai una gallese parla in italiano? Ho studiato all'università, quindi sono andata a Genova per un anno con l'università in Galles perché mi piacciono gli uomini italiani. Ah, quindi diciamo l'attrattiva è stata quella. Molto bene. Ma già che ci siamo, Genova non ha la fama di essere una bellissima città in Italia, cioè ci sono città molto più belle. Lo A te è so. piaciuta Genova? All'inizio no, no. Mi è preso un po' di tempo, ma dopo, quando è finita l'università, sono andata per 3 anni. Sono stata lì all'università come lettrice per 3 anni perché mi piaceva, ma all'inizio non mi piaceva. No, ah, La guarda. gente è molto chiusa. Ah, e invece dopo ti sei trovata molto bene anche con Sì, la gente. sì, Ma sì, lo sai che i genovesi sono un po' come gli scozzesi sì. d'Italia? Chiusi. Ma non solo chiusi, anche un po' tirchi, cioè non spendono molto. Hanno questa. Sì, lo Quindi so, ho visto, ho Ah, visto. quindi hai confermi Tutti questa. gli amici italiani non ci invitano mai a casa loro, Ah. soltanto ci vediamo al pub e dopo se possiamo venire a casa. Vostra? No, Ah. no, Ah, mai, mai, mai. quindi Noi sono. facevamo, gli inglesi facevamo le parties, le feste, e loro no, Ah. stare con i genitori, no, no, no. Non erano mai aperti. Eppure anche attraverso questo comportamento ti sono piaciuti i genovesi? Yeah, it's okay. Ma molto bene. Allora diciamo ti sei adattata molto bene. Sì. Quindi sei stata quanti anni a Genova? 3 anni come Un per anno lavorare? all'inizio e dopo l'università 3 anni. Tre anni. E che cosa facevi a Genova? A parte i party che voi stessi organizzavate per Oh, poter avere gli ospiti? sì, exactly. Primo anno studiavo italiano lì e quando sono tornata come lettrice dopo l'università in Galles, ero lettrice e davo anche lezioni nelle scuole private Private. anche. Quindi tanto lavoro, ma Sì, ma soltanto l'anno accademico, perché l'estate faceva troppo caldo per me, quindi tornava in alla Galles. pioggia. Ah, quindi infatti quello volevo chiederti, come ti sei trovata quando c'era il sole? Tu Faceva troppo caldo. quindi cercavi la pioggia Sì, sì, e sì, sì. questa è una bella stranezza. Benissimo, allora facciamo una piccola pausa musicale e ritorniamo qui in studio tra poco. Torniamo in studio con la nostra ospite Judith. In suo onore abbiamo selezionato tutte musiche famosissime inglesi cantate in italiano dagli stessi autori, quindi sentiremo delle vere chicche, delle grandissime chicche. Esatto, delle canzoni veramente che nessuno poteva aspettarsi. E tu la conoscevi la versione italiana di Un passo avanti? No. No, benissimo. Quindi, e penso che anche le altre non le avrai mai sentite. Una domanda. L'Italia è, diciamo, la parte della lingua italiana è molto varia perché ci sono i dialetti parlati in ogni città. Sì. E come ti sei trovata con il dialetto di Genova che sembra... Berlin, portoghese. Berlin. Sembra addirittura... C'è stato un cantante di Genova che ha fatto una canzone in portoghese genovese insieme perché hanno la stessa musicalità. Tu come ti sei trovata con la... tu studente di lingua? Beh, non conoscevo altre, ma soltanto Genova poteva capire bene la lingua, ma quando sono andata a Roma era difficile. Sì, perché è tu... Così. Perché, non è, perché mi sono, ho preso l'abitudine quando ero a Genova. E questa differenza ci sono anche in Inghilterra, anzi in Bretagna o no? Tra proprio città che parlano... Oh, sì. Beh, c'è gente, per esempio, che loro come si parlano si parla a Liverpool, non è come si parla a Londra, veramente differente. Sì, ma proprio quindi parlano proprio con parole differenti? Parole, ma l'accento, anche parole, espressioni. Quindi, diciamo... C'è la stessa cosa dappertutto. Esatto, quindi non c'è... Abitava in Grecia, la stessa cosa lì, sì. Thessalonica, Athens, è diversa. Quindi praticamente, allora, non siamo noi italiani che facciamo fatica a imparare lingue, è proprio così dappertutto. Sì. Ah, molto bene, questa cosa ci lascia molto... Ci rincuora, Fabrizio, esatto. Tanto. Ci solleva, perché pensavamo noi di essere negata. Tra l'altro, tu sei un'eccezione che parli bene diverse lingue. Oltre all'italiano, mi hai detto che hai studiato il francese. Sì. E poi, cos'altro? Un po' di greco. Quindi tu sei un'eccezione, ma diciamo italiani e inglese forse in comune hanno il fatto che non imparano le lingue, fanno molta fatica a imparare. Sì, è vero. E come mai pensi che gli inglesi siano così... Perché è molto importante, perché Stati Uniti si parla inglese, è per quello che siamo così. Abbiamo un complesso superiority complex. Un complesso di superiorità. Sì, quindi l'abbiamo... Io non ce l'ho perché ho imparato molto. Comunque, sì, l'inglese sono così. Fabrizio. Siamo in vacanza, non si parla l'inglese qui, come mai? È così. L'inglese sono così in vacanza. Fabrizio, gli inglesi, tra virgolette, se lo possono anche un po' permettere, ma noi perché invece... Esatto. Noi non riesco a capire, infatti... L'impero romano che dominò il mondo. Noi non so. Abbiamo complessi di superiorità anche noi? Non sono sicuro. No. Vabbè, non approfondiamo il perché gli italiani non ci arrivano. Gli inglesi hanno trovato la scusa, noi siamo superiori e quindi non ne impariamo. Gli italiani sono ancora lì che se le chiedono le cose. Molto bene. Raccontaci qualche cosa che ti è successo in Italia, qualcosa che tu hai detto, ma questa cosa è veramente strana. Tu mi hai detto che hai fatto, sei stata un mese a Ravenna. Questa è la prima volta, sì, ho fatto un anno all'università e non facevo niente, gli studi, quindi la professoressa mi ha detto è meglio andarci per l'estate per imparare. Ok. Allora sono andata a stare con la famiglia un mese a Savona e un mese a Ravenna, la stessa famiglia, per imparare l'inglese alla loro figlia. Che aveva 5 anni, che era orribile. Ma poverina, una bambina di 5 anni può imparare l'inglese. Era, come si dice, spoiled? Viziata. Veramente viziata. E i genitori... non si stava bene insieme, allora si litigava sempre, la notte, la mattina, il pomeriggio, la cena, sempre. Quindi i genitori tra di loro litigavano? Sì, non era molto difficile esserci, perché i miei genitori non hanno mai fatto così davanti a me e a mia sorella, quindi era molto difficile. Quindi per te era una novità assoluta, come in una soap opera, vedevi da dentro, eri come in una soap opera, cioè tu vedevi la discussione. Un reality show. Un reality. Yeah, assolutamente. Quindi è un'esperienza nuova. Orribile. Mi ho detto per 10 volte, ho detto non mi sposo mai nella vita, l'ho fatto comunque, ho detto orribile questa cosa lì, non ho mai visto nemmeno i genitori dei miei amici, mai. In Inghilterra siamo un po'. Siamo un pochettino chiusi, nel senso chiusi. Le litigate, le dispute le fate vis-à-vis. Behind closed doors, dietro le porte chiuse. A porte chiuse. Ah, quindi va quindi bene. Era molto difficile, ma sono diverse nei paesi, in Italia, in Francia e in Spagna si litigano. E in Grecia, visto che God. Quindi, diciamo, è una caratteristica nostra. Ma, tutto viene messo così. Mio figlio è mezzo greco e mio ex è greco, quindi sì. Quindi ho visto tuo figlio questo. Litiga con te? No. Io con suo padre. Ah, ok. Fabrizio, ti dico solo una cosa, che io la prima volta che andai in Grecia avevo 15 anni, andai con la scuola. Mi ricordo che eravamo sul pullman che ci portava dall'aeroporto all'albergo. Io guardavo il traffico. C'era stato un incidente tra due automobilistici, questi sono usciti per picchiarsi, Che bello, avrei voluto vedere. Questa è la vita. Spettacolo gratuito. Questa è la vita, questa è veramente la vita che del mondo, non cosa vuol dire litigare chiusi in casa, no, via, bisogna farsi sentire. Condividere. Esatto, e poi tutti lo devono vedere, ci vogliono i testimoni, tutti lo devono sapere. Ma stai parlando del pullman? Mi ricordo erano pullman spesso per andare all'università, a casa, e una delle prime parole che ho imparato era sciopero. Sciopero. Era sul pullman, dobbiamo scendere, qua. Sciopero. Cos'è sciopero? What the fuck is sciopero? E quindi ho imparato velocemente sciopero. Quindi anche nel pullman, sul pullman? E noi in Inghilterra, in Regno Unito, i miei, tutti dicono, non devi mai fissare gente. Mai guardarla negli occhi. Comunque, in Italia, vengo dal pullman, tutti mi fissano. Ti guardano, ti guardavano. Sì. E cosa dicono? È bionda, è tedesca, tedesca, non sono tedesca, sono inglese, è tedesca, bionda. Perché non siamo abituati. Guarda, sempre fissare, e questa è una cosa che in Inghilterra non si fa. Sì, ma ti dico una cosa, in Italia le bionde ci sono, ma sono un po' più rare delle brune. Quindi sì, ma non bionda... sono tutti tedeschi. Diciamo che siccome vengono tante volte in Italia i tedeschi, quindi siamo abituati, pensiamo, infatti i tedeschi per gli italiani può essere svedese, danese, inglese, sempre tedeschi, perché siamo abituati a loro. Ok. Sono venute molte volte in Italia, quindi... Allora, questa è la seconda parola che ho imparato, sciopero e qui tedesco. Ah, bene, quindi sei partita bene. E quindi dimmi una cosa, ma per ritornare alla famiglia litigiosa italiana con la bambina, hai detto che la bambina non era molto simpatica. No. Cosa faceva questa bambina così viziata? Tutto quello che voleva, la mamma ha comprato tutto. E tu dicevi no. Va a mangiare, non piace, facciamo altre cose da mangiare. Da me non si può fare, a noi all'epoca, adesso non lo so, magari le cose hanno cambiato, non lo so. E la paga era orribile. Ma quando dovevi insegnare l'inglese a questa bambina? Ti diceva no, non ne ho voglia, no, basta? Provare di parlare, per esempio, i colori, cose così, non so, era difficile. E all'epoca non mi piacciono i bambini nemmeno. Ah, quindi insomma eri proprio sfortunata. Non volevo bambini. Perché hai accettato quell'incarico? Perché la professoressa all'università mi ha detto: Judith non ha fatto niente quest'anno all'università, non ha studiato, non ha fatto niente. Comunque parli il francese, perché stavo prima in Belgio, puoi farlo, ma non hai fatto una sforza, niente. No, ma dico, perché hai scelto... Allora, lei ha detto, questa donna era lettrice prima in Galles, lettrice, quindi si conosce... Sì, vanno, sì, okay, sì, sì. Ok, e per quello che aveva il contatto con questa fama. Io pensavo che fra tante avessi scelto proprio i bambini, no. Visto che non li amavi, avevi scelto per soffrire di più. Sì, sì, no, io pensavo una bella esperienza, ma era orribile. Ah, quindi benissimo. E quindi hai avuto questo contatto con una famiglia italiana, quindi hai visto la vita della famiglia italiana dall'interno come un reality o una soap opera e non l'hai amata. No. Quindi è stata veramente dura. Vorrei sapere cosa dicono i bambini italiani o i ragazzi italiani che vanno nelle famiglie in Gran Bretagna, quando tornano, a sapere che cosa ne pensano della vita in Gran Bretagna. Non lo so. Perché quando sono... Beh, si dice sempre, non si mangia bene in Inghilterra, si mangia male, e si mangia bene in Italia. Io ho mangiato bene in Italia, ho preso 10 chili. E mangiato anche tanto. Primo, pasta. Secondo, primo, secondo, terzo. Cos'è questo? Non ho capito, ma... Ma a proposito del mangiare bene o mangiare in Inghilterra, il fish and chips è, diciamo, la specialità, quella che io non riesco a mangiarlo. Okay, cioè, è qualcosa No, a me piace, sinceramente. Io non ci riesco. Che bravo che sei. Non ci riesco. No, quando sono andata in Italia, I realized... Ho scoperto. Non mi piace pizza. Ah, ah, wow. Quindi tutti i ristoranti pizza, pasta e pizza non piacciono. C'era un ristorante cinese, un solo ristorante all'epoca. Ristorante cinese vicino al porto di Genova. Allora avevano tutte le cose cinesi. E c'era scritto noodles. Noodles cos'è in italiano? Like spaghetti things. Tipo spaghetti, spaghetti cinesi. Allora, spaghetti cinesi, ma non erano spaghetti cinesi, erano spaghetti. Ah, normale. Spaghetti da super sconto, non so come si... quindi c'erano dei... Con gatto, spaghetti col gatto. Anche cane. Buono. Yeah. No, era molto difficile... per mangiare fuori pizza pasta perché non avevo tanti soldi, quindi per pagare steak, tutti questi bistecca costa troppo. Comunque, per ritornare a fish and chips, una mia amica inglese mi aveva chiesto cosa posso fare per dimagrire. Gli ho detto: smetti di mangiare fish and chips. Mi sa che dopo questa tua amica non l'hai più sentita. Infatti, effettivamente sono anni che non la sento, però mi aveva detto: ci penserò. Benissimo, direi facciamo un'altra piccola pausa musicale e ci ritroviamo qui con la nostra ospite Judith. Cari amici ascoltatori, siamo venuti a un momento molto importante della nostra trasmissione, è il momento della poesia e vi vogliamo far conoscere dei nuovi autori che vanno al di là del circuito classico, tradizionale, commerciale della poesia e che potremmo definire bohemien. Abbiamo questa sera in anteprima qui sulle onde di Barbecue Radio Alma il poeta De Gustibus con la sua opera De Gustibus. Vi invitiamo veramente ad ascoltarlo, perché queste poesie sono delle poesie uniche, eccezionali, che non avete mai sentito finora. Mi dicevano che la mattina, quando si svegliava, aveva le palline di pepe nero negli occhi. De Gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che aveva i gomitoli di lana nell'ombelico. De Gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che aveva le cosce grosse come due prosciutti. De Gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Pensiamo che abbia fatto bene, invece. Mi dicevano che aveva le dita delle mani grosse come salsicce. De Gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Quindi la signora non suona il piano. Mi dicevano che aveva il grasso di foca spalmato sui capelli. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mi dicevano che aveva un groviglio di fil di ferro sotto le ascelle. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mi dicevano che aveva il parmigiano reggiano sui capelli. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Questo è un tributo alla sua signora. Mi dicevano che aveva il miele che le usciva dalle orecchie. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mi dicevano che aveva la marmellata di castagne sotto le unghie. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Guardi, poteva anche andarle peggio, eh? Mi dicevano che aveva residui di catrame tra le dita dei piedi. De gustibus non disputandum est. Ma che amici... Sposata. Ma chiami Greenpeace, cosa vuole che le dica? America, chiami Greenpeace. Mi dicevano ancora che aveva residui alimentari tra i denti. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mamma mia, che tesoro, mamma mia. Mi dicevano che aveva la crema di bignè che le colava dal naso. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Su, si tiri su, almeno è dolce. Insomma. Mi dicevano che era tozza. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Beh, è una lode alla sua signora. Mi dicevano che era una tappa. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Ma non si dicono queste cose, meglio dire bassa, piccolina, è comunque sempre la sua signora. Mi dicevano che aveva una voce che toccava le stesse note acute del gesso che stride sulla lavagna. De gustibus non disputandum est. L'ho sposata. Per accettare questo ci vuole una gran bella forza d'animo, eh? Mi dicevano che poteva immagazzinare il cibo nelle guance come i roditori. Giusto le scorte per il letargo invernale. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mi dicevano che se buttata in acqua avrebbe galleggiato come un tronco d'albero. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Beh, almeno così non la perde. Sì, mi dicevano che se spalmata d'olio e lasciata al sole si sarebbe rosolata come il roast beef. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Guardi che il sole fa di queste cose, non solo a sua moglie, eh. Mi dicevano che sapeva ruotare le orecchie come gli animali. Ma è per sentirla meglio, piccino. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mi dicevano che aveva gli occhi indipendenti come un geco. Ma lo sa che vorremmo proprio conoscere la sua moglie, deve essere un bel esemplare. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Mi dicevano... Cos'altro? Che amava tutti gli animali con le patate di contorno. De gustibus non disputandum est. E l'ho sposata. Una donna sensibile, insomma. Mi dicevano che amava scavare buche in giardino come le talpe. Delle buche? Questa forse è la cosa più bizzarra di sua moglie. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che quando camminava sembrava un cammello in marcia sulle dune del deserto. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che quando rideva nitriva come un cavallo. Non si fa mancare niente. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che quando soffiava era come una spruzzata di insetticida. Almeno tiene lontane le zanzare. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che quando parlava irrigava i campi. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Guardi, guardi, credo che dalle sue descrizioni ci siamo fatti un'idea di sua moglie. Mi dicevano che aveva uno sguardo profondo come una pozzanghera. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Mi dicevano che aveva un'intelligenza acuta come il guscio di una noce. De gustibus non disputandum est, e l'ho sposata. Puttannata. Guardi, guardi, finiamola qui. Ci saluti tanto la sua signora. Judith, ma è tarocco. Invece è proprio lui. Judith, ci devi dire, ascoltando questi cantanti che cantano in italiano, questi cantanti inglesi, queste voci famose inglesi, che impressione ti fanno? È molto strano. Sì, eh? Comunque conosco la voce di David Bowie, l'ho visto in concerto, tutto, sono un tifoso. Sì, sì, un fan, una fan. Un fan. Tifoso è per calcio. Sì, è più per il calcio, okay, più sportivo. Okay, va bene, ok. No, è molto strano, sì, eh? Perché sta cantando canzone che conosciamo. Sì. E quando sono gli altri italiani che cantano in inglese un'altra canzone che non conosciamo, è la stessa cosa. Diciamo, cantando una canzone non conosciuta è accettabile. Sì, sì, sì. Ecco, ma quando è una canzone conosciuta... Sì, yeah. Mi veniva in mente... Un cantante che decide di cantare in italiano, sì, poi non la fa ascoltare in un'altra lingua nel proprio paese, cioè David Bowie questa versione qui non l'ha mai fatta ascoltare, no, in Inghilterra. Non lo farà mai. Sì. Nemmeno Madness. Madness, David, Rolling Stones, sì, Mick Jagger, mai. Tutte novità, sono tutte sì, novità sì, musicali. Sì, sì, ecco. Nella pausa mi raccontavi che c'era qualche cosa che ti è capitata a Genova che volevi raccontare. Ma niente di speciale, soltanto ho visto... Ma quando, parlando di musica, mi ricordo i miei studenti, quando sì, era all'università, mi parlavano di UE2. Ah. I said, who the fuck's UE2? And UE2, you too. UB40. What? Cos'è questo? Era una cosa incredibile. Allora, questo, ecco, invece ho incontrato un ragazzo che dice, andiamo sabato in discoteca, si chiama Envy. Come si? Envy. Cos'è questo? Che cos'era? Anyway. Ah. Anyway, a Piazzale Ferrari a Genova, e sono andata con lui, finalmente ho capito quale, come si chiama la discoteca, e tutti i ragazzi ballavano davanti al lo specchio, con gli occhiali di... Da sole, no! Yes! No, no, inaccettabile! Yes. 83. In discoteca 83. Con gli occhiali da sole. Incredibile! Questo è uno degli stereotipi vanità? Sì, Fabrizio, la settimana prossima voglio diretta barbecue con gli occhiali da sole. No, non ci posso credere. Questo è uno degli stereotipi che stiamo cercando di abbattere, e tu arrivi I'm qui e ce lo... Mi dispiace. Anyway. È come il tramvai, eh? Il tramvai, invece il tramway, il tramvai. Non riesco a crederci. Ancora una piccola cosa, sì? Perché eravamo lì 5-6 inglesi, che avevamo un pub, si chiama The Britannia, vicino al Prince Ferrari, era buono. Beh, domenica tutto era chiuso, tutto. Si può comprare fiori o focaccia. Domenica mattina... E a mezzogiorno e basta, tutto è chiuso. E sono tornata 2 anni fa, la prima volta in 18 anni, ho visto che ha cambiato moltissimo adesso, sì. Ma all'epoca tutto è chiuso, e noi cosa facciamo adesso? Non abbiamo pensato di andare a fare la spesa, tutti i ristoranti, tutto è chiuso. Era noi, era veramente... Yes, è incredibile. E non andavamo a chiesa, ovviamente. Chiaramente. E quindi questa era una grande sorpresa per voi che eravate invece abituati. Sì, veramente. E, abitavo nel centro storico. Sì. Allora gli alunni all'università avevano paura. Come potete lavorare, abitare lì nel centro storico? Ma non, era un po' difficile. E mi ricordo i miei sono venuti, i miei genitori sono venuti a trovarti. Sì, ho dimenticato di spiegare alle tre di notte, ogni notte. C'era una signora che aveva, penso di aver bevuto qualcosa. Sì. Allora, suo marito era killed. L'aveva uccisa. Sì, suo marito. Ah. Quindi alle 3 di notte sortiva e sentiva, assassino, assassino, mezz'ora, così, assassino, tutti i vicoli, nel mio palazzo, sì. Mezz'ora ogni notte. E quindi era la donna che gridava? Sì, per suo marito, sì. Incredibile. Aveva bevuto, quindi assassino. Ho preso l'abitudine, ero più giovane, così i miei. Niente. Mia mamma ha detto: come si può abitare qui? Incredibile, è pericoloso, sono tutti stranieri. E quando gli hai spiegato cosa voleva dire assassino, anche peggio, si sono preoccupati, hanno avuto paura. Sì. Potevi dirgli che era un fantasma, che siccome in Inghilterra tutti i castelli sono abitati da fantasmi, potevi dirgli che era un fantasma, che il fantasma di Genova. Fantasma locale. Sì. Il fantasma Bellin. Esatto. Bellin. Ok. Giudite. Siamo arrivati al punto che facciamo sempre con un ospite straniero un gioco. E allora io adesso ti leggerò una frase. È un gioco, non ti preoccupare. Io ti leggerò una frase e tu mi dovrai dire se secondo te è una frase che può aver detto un italiano sugli italiani, sì, o può averla detta uno straniero. È molto facile, ci arriverai sicuro. Allora, se gli italiani avessero l'etica del lavoro dei giapponesi, potrebbero essere i padroni del mondo. Grazie al cielo non ce l'hanno. Secondo te l'ha detto un italiano o lo può aver detto uno straniero? Straniero. Esatto, hai indovinato. E infatti l'ha detta Bill Bryson in una città... Sbagliamo tutti. Bill Bryson è top, veramente. È come Anivai o Tramvai. Noi abbiamo sbagliato, anzi ho sbagliato l'accento all'ospite italiano, io. Ho detto Margari anziché Margari. Quindi è un vizio. Bellin. Bellin, i nomi purtroppo... Ti sei imbellinato. Comunque, l'ha detta un inglese. È inglese, no? Bill Bryson. Sì, sì. Ok. Sì. Ma tu la condividi? Secondo te è una frase vera o esagerata? Non è corretta? Ma è esagerata. Che se gli italiani avessero l'etica del lavoro dei giapponesi sarebbero i padroni del mondo? No. No, non è vero. Beh, non è vero perché gli italiani non ce l'avranno mai o sono i giapponesi che non hanno etica del lavoro? La prima cosa. Ah, quindi sono gli italiani che non ce l'hanno. Ah, va bene. E se invece la frase fosse se gli inglesi avessero l'etica del lavoro dei giapponesi potrebbero essere i padroni del mondo, funzionerebbe secondo te se gli inglesi o i gallesi? I gallesi. Sì, sarebbe così, sarebbe corretta. Vabbè, diciamo, abbiamo fiducia nell'ospite, quindi gli crediamo. E hai qualche altro episodio da raccontarci sulla tua vita in Italia? Oh, God, no, non tanti, no. Vabbè, ti lasciamo il tempo di pensarci. So che ho viaggiato già un pochettino. Mi ricordo quando sono andata a Napoli, sono andata con un boyfriend che avevo e sono andata nel negozio di scarpe, come noi le donne facciamo sempre, ed era da sola. Posso che... Sì, prego. E mio boyfriend non c'era, era nell'albergo. Allora sono andata per scarpe e un ragazzo lì ha detto: ah, da dove sei? Vuoi venire sulla mia barca con me a Napoli? Vieni sulla barca domani, facciamo una giornata sulla mia barca, ship. Sì, barca. Era uno yacht o una barca... Non esiste, penso sicuro. E ha detto, ma sono qui con un boyfriend, non è che sono da sola. Non puoi venire con me. E c'erano due o tre amici con lui nel negozio e pensavo, sì, vengo con mio boyfriend. Forse l'hanno... Preso e buttato in mare. Questo. E per quello non volevo prendere il rischio di farlo. Per il tuo boyfriend hai fatto, sì, e ho anche a Napoli mi hanno detto di non mettere gioielli, tutti questo. Questo anche adesso, Anni. Vado a Roma ogni anno per il rugby, sei nazione. Roma è bellissimo, è diverso da Genova, devo dire. È più turistico non è la stessa cosa. Sì. Genova mi piace perché non è la stessa cosa. Sei arrivata ad apprezzare Genova, quindi questo è molto bello. E poi lo sapevi che i genovesi hanno venduto le reliquie di San Giorgio sia agli inglesi che ai russi? Quindi San Giorgio, sai, San Giorgio? I genovesi hanno preso le reliquie. Le reliquie sono parti del corpo e l'hanno venduto sia agli inglesi che alla città di San Pietroburgo. E quindi San Giorgio è un santo con due teste, quattro gambe, perché sono riusciti a vendere più parti a più. Quindi il legame tra Genova e l'Inghilterra è molto stretto. Ok, benissimo, allora facciamo una pausa e ritorniamo dopo per i saluti. Torniamo in studio con la nostra ospite Judith, che ci vuole raccontare adesso la sua esperienza in Italia che ha avuto con il vino, perché ci hai detto che già conoscevi il vino francese, l'avevi conosciuto qui in Belgio prima e quindi com'è stato l'impatto con quello italiano? Non mi piace tanto il vino francese. Ah, questa quindi è una notizia. Ero molto contenta. E il vino inglese, ok, niente. Vino gallese, niente. Scotch, ok, whisky scozzese, c'è qualcosa. Ho visto che c'era di Pinot Grigio, mi è piaciuto moltissimo, ma nel pub, già andava in Britannia, era troppo costoso, quindi ho preso soltanto vino Pinot Bianco. Era costoso. E costava meno. Quindi vuol dire che anche non era così buono? No, ma va bene. Mi piaceva Pinot Grigio. E ho detto, quando quando sono più grandi, ho soldi, prendo sempre Pinot Grigio. È vero, a casa Pinot Grigio. E con cosa lo associ? Perché diciamo in Italia il vino lo beviamo insieme al pasto, mangiamo con il vino. Sì. E tu... Ma noi in Inghilterra beviamo tutto senza mangiare. Quindi avete il sapore lo gustate meglio. Sì, è così. E beh, questo problema con gli altri, perché, per esempio al lavoro, magari un compleanno di qualcuno, c'è vino, e vengono sempre con salami, formaggio. Noi inglesi non vogliamo questo. Basta il bicchiere. C'è un'espressione, vogliamo bere, in inglese, no eating is cheating. Non so se si può posso no, spiegare. Non mangiare, ma... Non mangiare vuol dire che... Massaggiare. Yeah. Non posso spiegare. Anyway. Vabbè, comunque abbiamo capito il senso. Sì, sì, sì, sì. Noi beviamo e non mangiamo. Esatto. Anche. No, non importa. Non importa in inglese, il vino, in inglese può mangiare il pesce con vino rosso, sì. Carne, bistecca con vino bianco, non importa. Basta che piaccia il vino, poi sì, quello sì, che sì, viene sì, dopo non sì, importa. Sì, sì, sì. Anche perché il vino aiuta non... Anche mangiamo molto male in Inghilterra, come vabbè. Dicono. Sì, non è vero. Cosa consiglieresti di assaggiare in Inghilterra o in Galles? Agnello, sì? Agnello di Galles è molto buono, come l'agnello di Nuova Zelanda. New Zealand. Nuova Zelanda, sì, sì. Nuova Zelanda è molto buono, agnello, anche in Galles. Ah. Molto, molto buono. Ah. Ma mangiamo sempre con verdure, ma senza salsa. Ah, ah questa... senza olio. Ah, né salsa né olio, quindi crude. Verdure. Ma no, c'è una salsa speciale, ma non è. Non mettiamo mai olio d'oliva sulle verdure. No, non si può. È quello di importazione l'olio. Magari un po' di burro. Forse su patate e basta. Siamo diversi. Se capito in Galles porterò un ombrello e assaggerò l'agnello. No Fabrizio, secondo me se tu capiti in Galles ti porterai dietro una boccettina di olio d'oliva e così la metti su. Sì, sì, sì. Sì. Ah. Sì. Si può fare, se si sì, può sì. Fare può darsi. È importante, lo farò, è importante. Lo farò. Benissimo, pausa musicale e poi torniamo con i saluti. La canzone è molto bella, sinceramente. Sì, sì, sì. Soprattutto la pronuncia è perfetta. La pronuncia è perfetta e devo dire che il testo è bello. Cioè, devo dire che prima le canzoni non erano allo stesso livello di quelle originali. Questa, secondo sì, me, è quasi. E spiegami, Judith, avevi mai sentito Sting cantare in italiano questa canzone qua? No. Mai. Quindi no. Questa canzone non l'ha neanche cantata in inglese, Sting. Beh, non mi piace Sting. Ah, quindi per perfetto. Niente, no. Abbiamo sbagliato. Vabbè. Vabbè. Allora, qui ormai purtroppo il tempo stringe e noi stiamo arrivando alla conclusione. Judith, cosa ci puoi ancora raccontare del Galles? Per invogliare noi Galles. Del Galles, esatto, per invogliare noi a venire in Galles. La città capitale Cardiff. Sì. Come Jennifer... Noi chiameremo Cardiff, ma non Cardiff. Cardiff, va bene. E in Galles si chiama Cardiff. Ah, che bello. Cardiff. Sembra quasi italiano. Vuol dire campo nero. Ah, campo nero. Campo nero. Yeah. Sì. In gaelico, che lingua è? In Galles, in Welsh. Welsh. E dimmi una cosa, e quindi per invogliare qualcuno a venire a vederla, cosa c'è di speciale da vedere a Cardiff? Cardiff. C'è un bel castello. C'è il fiume, c'è Cardiff Bay, non so se conosci Doctor Who. Sì. Quindi c'è tutte le cose lì del Doctor Who dove filmano. Girato... Sì, ah. Sì. C'è tutto un grandissimo dove si fanno sempre sì, Doctor sì, Who, i film. Ah, tutto lì. Molto bene. Viene Tom Jones, viene da Galles, Delilah. Tom molto Jones, bene. Shirley Bassey, non so se... No. Bassey? Shirley Bassey, Richard Burton. Ah, pure lui? L'attore. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, sì. Mia mamma faceva le lezioni di violin con sua sorella. La sorella di... Richard Burton. Questa notizia ci lascia veramente attoniti, ma purtroppo il nostro tempo è finito. Dobbiamo salutare Judith, la nostra ospite. È stato un vero piacere averti qui in studio. Well, grazie mille. Scusami se non parlo bene italiano, ma 30 anni fa ero lì, quindi ho dimenticato molto. Lo parli benissimo l'italiano. Ok, thank you. Grazie. Belli. Ringraziamo gli ascoltatori. ascoltatori. Sì, e li invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook Barbecue e sarete sempre aggiornati. Esatto. Seguiteci. E possono ascoltarci venerdì in replica alla stessa ora. Infatti alle 9, perfetto. Benissimo, ciao a tutti e grazie ancora Judith.